Per Elisa, ognuno è sordo a modo suo. Canto ottavo. Dante e Beatrice salgono al terzo cielo, il cielo di Venere, dove si trovano gli spiriti amanti, cioè si manifestano le anime di coloro che indirizzarono ad alte imprese il loro prepotente sentimento d'amore. Sort of mowing the lawn and came across some people that no one clicked. Convinzione nella mia leggera ossessione. Ecco, questo è questo libro parla di un'ossessione amorosa. Questo spettacolo di giochi sono catastrofe, per cui se io non ci rimango, voi non troverete ad una parola che non è una luce chiara di un'emozione che mi viene. Incontrare la vita di fianco, di spalle a volte. Percorrere le vie laterali, i sentieri piccoli. Aspettare, nascosti in un buco. I fiori, in campagna. Non volevo, non era mia intenzione. Ho peccato di superficialità, non mi sono reso conto. Mi dispiace tu l'abbia interpretata così, lo sai come sono fatto. Non voglio sconti, sono un ingenuo, sono un poveraccio. Non ho più nulla. Sei il lembo trasversale, di folle, viva carne, che inaspettatamente si fa purpurea strada, lì, tra la putrescenza di mie vecchie ferite, apposta trascurate, incerottate male. E mi rimbalza in testa, poi si schianta sull'epifisi, il ricordo vischioso di ogni tuo diniego, che non m'azzardo a cancellare, proprio per il gusto di torturarmi, fare confusione tra me e te. Si impastano salive, aliti, volti e bla bla bla, nel sudicio vagone di una metropolitana. Farciscono le orecchie di problemi esistenziali, di calcio, di politica, poi uscita lato destro. Crollasse il mondo intero, su se stesso si torcesse, venissero giù piogge torrenziali e meteoriti. Si profilasse il fungo nebuloso dell'atomica, scorressero veloci questi titoli di coda. Quelli che tutti saltano, pigiando fast forward, che i meriti se altrui non interessano a nessuno. Chi è stato? Che ti importa? Adesso torna a lavorare. Finisci tutto al niente, fallo bene questo male. Rigetti sangue e pulsi a 180 bpm, tu, mio antico nemico, tu, straniero, tu, mio cuore. Ma non fai più paura da che osservo il mondo e penso che in fondo sei l'ennesimo substrato di dolore. Dal nucleo del divario germoglia il pregio dei pregi. Di tutti questi sfregi fossi il solo necessario. Oh! Beh, non so. È che... No. No, non so. Ah. E quindi? Quindi? Quindi che... Quindi? Boh. Ecco. Infatti. Già. Puntini, puntini. Puntini, puntini. Vabbè. Vabbè. Dire poi che non te lo aspettavi è da ridere. Mi viene da ridere. Per amore? Quale amore? Sei un'ossessione. Affiorano, mi pare, certi ricordi. No, non lo so, non so più niente. Ho perso le coordinate del pensiero. Hai lacerato la mappa dell'esistenza. Non ce l'avrei fatta comunque. Non ce la faccio. Sempre all'improvviso, una sorpresa d'esistenza, un regalo di bellezza, rotto. Per affanno e impazienza, voler giocare tutti i giorni, tutte le ore. Ho fallito e ho rinunciato, ho fatto una cazzata. Ho comprato le cazzate al negozio dei cazzoni e le ho collezionate tutte, una dietro l'altra. Oh, life, a candle's fire carries a good name. What would you ask a campfire? It scares me just the same. And you have an understanding of its enemy. The enemy of each one of us is the devil. Your enemy is the truth next door, neighbor. I have people come to me and say, Brother Sam, I pray for my next door neighbor. That's my enemy. That is not your enemy. That is a potential brother or sister that is living right next door to you. But your enemy is the devil. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and against powers and against wicked spirits in high places. A lot of God's people think the devil's in hell. He ain't in hell. He's... Non puoi perdonare, non devi. Puoi amarmi? Da morto. Almeno questo. Tutta la sera con gli occhi bassi, lo sguardo a terra, perfino le chiacchiere le rivolgevo a terra, le risate anche, rivolte verso terra. Il giaccone? In stanza da letto. Il bagno? in fondo al corridoio. Il citofono, prima stanza sulla sinistra. Osservando tutto, spiando ogni micro movimento, studiando le più piccole variazioni negli spostamenti di tutti, delle loro gambe, delle caviglie, dei piedi, infilati in bellissime scarpe di cuoio, o di pelle, o scamosciate, o in gomma, con le suole basse o con i tacchi, forme, colori, tutti diversi. Il sassolino di catrame attaccato alle loro suole, invece, lui era sempre lo stesso, perché le ferite sul parquet in ciliegio di Norvegia si somigliavano tutte, le vedevo bene. Cazzo! Mentre le partorivano e le nutrivano come fossero gatte sterilizzate. Poi ho servito dolci e caffè, poi ho servito amari e cognac e ho ridato loro i cappotti, le sciarpe, guanti e cappelli e ho detto loro «Alla prossima allora! È stato un vero piacere avervi qui!» Se ne sono andati, tutti, e non sono più tornati. Mentre faccio colazione, more, miele, caffè latte e succo d'arancia, penso che con un fucile la mia vita cambierebbe in meglio. Inizialmente verso l'alba schianterei il cane del vicino, una bestia né brutta né bella che abbaia e ringhia mentre passeggio da gran signore nella mia terra. Darei poi due colpi al vicino che l'ha comprato, così, en passant. Dovesse mai andare in giro a raccontare che sono un violento. Cambio fronte. Tocca ora all'altro vicino. Un vecchio ingegnere sordo, che sta sempre lì a lamentarsi che i miei alberi fanno ombra al suo povero orticello. Che non rompesse più i coglioni. Agli alberi in parallelo con i miei, se la prendesse con i suoi di fusti. Per non parlare del suo ridicolo orto, una volta l'ho visto e fa cagare. Per scaricare il fucile, infatti, sparerei all'insalata. A sera, una volta esaurita la piacevole furia pirica, pulirei con accuratezza la mia arma, lunga, lucida, potente, e la riporrei nel suo bell'armadietto in fondo alle scale della grotta. A cena, davanti ad un bel pezzo di carne cotto alla brace, pianificherei gli obiettivi dell'indomani, pregustando la virilità del gesto, mentre sorseggio un vecchio bordelais. Una libellula, en passant, s'accosta, mi fa l'occhiolino e l'orizzonte tutto ad un tratto mi appare troppo mondano. Forse dovevo mollare tutto, mettermi a coltivare la terra. Lo diceva sempre mio nonno, mezzadro contadino, le scarpe grosse, il cuore mediocre ed il cervello fino. Quella del cuore è una stronzata, peccatuccio di presunzione, io che dal mio piedistallo tarlato volevo fare lo scrittore. Avere un pene da trastullare, mica per farci l'amore. E un paio di baffi carnevaleschi per darmi un tono migliore. Ma si consumano anni e ambizioni, sbiaditi, come l'alone, quello che resta sul vetro incrostato dopo che hai smesso di soffiare. Strappi la carta, spacchi la penna, bevi l'inchiostro e pisci nero. Mica ve l'ho chiesto io di darmi da mangiare un pomodoro transgenico. Tenetevele pure le vostre misticanze di metonimie fertilizzate e di cadaveri su cui annotate quando è tempo di raccolta. Io ho perso il conto, il campo è uno schifo, puzza di merda e malumore. E un pugno di funghi non commestibili spunta fuori da un libro di poesie lasciato al sole. Forse dovevo mollare tutto, mettermi a coltivare la terra. Caffè? Adesso no, più tardi. Cornetto? Dai, non ho tempo. Bicchiere d'acqua? Va bene, col bicchiere d'acqua. Grazie, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Più tardi. Caffè? E facciamo il caffè. Grazie. Caffè pronto. Grazie, grazie. Prego. Cornetto? No, più tardi. Più tardi, grazie. Ciao. Ciao, grazie. Più tardi. Cornetto? E come no? Grazie. Ecco il cornetto. Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Più tardi. Bicchiere d'acqua? No. Cornetto? No. Pizza? No. Caffè? No. Ciao, grazie. No. Tutti i giorni, ogni due ore, a volte agli occhiali da vista, non sembra lui, ma un altro, ma è uguale. Non hai capito niente. Non hai capito con chi hai a che fare. Non hai capito un cazzo. Non mi hai capito. Non mi hai capito mai. Non hai proprio capito con chi cazzo avevi a che fare. Lo hai capito? No, che non hai capito. Non riesci a capire. Non riesci proprio a capire. Non ti rendi conto e non capisci. Non capisci niente. Non capisci mai niente. Non hai mai capito niente. Come fai a non capire niente? Non è poi così difficile capire. Non è un'impresa impossibile quella di capire. Ci si può capire. Non occorre sforzarsi per capire. Per capire, basta restare in ascolto. Per capire, bisogna ascoltare. Per capire, basta capirsi. Lo stai capendo? Riesci a capire? Riesci a prendere in considerazione la sola ipotesi di poter capire? Hai capito? O non hai capito? Che hai capito? Che pensi di aver capito? Vabbè. Non hai capito. Capita. Volevo deprimermi fino a sera, tapparelle chiuse e scriverti: non sono un gioco con cui passare il tempo, fatti un cane piuttosto, che sarebbe comunque più felice di me con te. Ancora prima però non volevo scriverti per niente e neanche pensarti, e quando ti saresti fatta viva mi sarei negato, anche perché volevo dirti che il tuo moralismo coniugale è tutto tuo, perché io posso fare quel che voglio, in pieno accordo con mia moglie. Se per te è doppio adulterio, sono affari tuoi, io sono libero, anche col pensiero. Poi ho ricambiato ancora idea, perché è inutile che faccia il duro con te più del necessario e dirti: a onor del vero, le tue segrete attenzioni mi piacciono e non vedo l'ora di fare la spesa insieme e... va bene tutto, basta che ci vediamo. E che se ti fai il cane, poi sì sono cazzi, perché non hai 50 anni e niente da fare. Io preferisco il gatto, tra l'altro. Adesso penso che modo carino e curato di piegare la mia felpa, e che non me l'avresti ridata se non avessi ancora il mio maglione, e è tutto ciò che penso. Sono passati 8 mesi. Adesso so che mi sono rotto il cazzo. Caro Federico Raponi di Radio Onda Rossa e cari radioascoltatori, hanno scritto già tutto. Ebbene, scriveranno ancora, e meglio. Io scrivo di merda e quello che racconto è merda. Ma posso fare altro? Non voglio. Parentesi esistenziale o dell'innesto improvvisato? Lettera di addio alla moglie. Il punto è che tu in questi anni hai avuto una maturazione, un arricchimento di pensieri, emozioni e idee che io non ho avuto, per scelta o per incapacità. Ancora non lo so, ma è questo il nodo che devo e che voglio sciogliere. Questo cercare altro da quello che so, da quello che voglio, che fino ad ora ho voluto, tentando di giungere alla genesi delle idee. È uno studio che faccio su me stesso, per capire se sono capace di realizzazione e creazione autonome. Non riesco più a convivere con me stesso che si appoggia, seppur in maniera preziosa o semplicemente utile. Devo andare oltre la mia pigrizia e le mie paure. Insieme a te non è possibile. Per comodità e amore e generosità, mi limito a una pietosa collaborazione, mettendo da parte l'invenzione e la costruzione. Lettera di addio all'amante. Giorni di silenzio, di assenza, tra te e me, di lontananza, più o meno scelta, più o meno forzata, più o meno appesi nel tempo. Panni stesi ad asciugare prima del temporale, gocciolanti, lacrimanti, umidità elettrica. Fattorie americane disabitate, teatri dismessi, cinema d'essè svenduti a costruttori di supermercati, spiagge invernali snudate dalle mareggiate. I miei avanti e indietro per inutili campagne, silenziosi, solitari, sobri a volte. Senza convinzione alcuna. Sono la maglietta stesa ad asciugare, la stalla vuota, il cespuglio nel tifone, la bruciatura di sigaretta nella poltrona vintage. sono un film western antico, dimenticato. Sono la facciata di cartapesta, la casa fantasma, la casa senza senso, con niente dentro, con dentro niente. E ci scambieremo umide e fusioni e mononucleosi, come si fa con le figurine dei calciatori, ma non scarteremo via doppioni, le terremo da parte per quei tempi di magra, quando un bacio solo non basta, due già ti salvano l'anima. E dormiremo stesi sopra letti di chiodi per testare ancora e ancora la percezione del dolore. E ci sentiremo un po' più vivi, a dispetto dell'anestesia, dell'oppio del tuo rigordi logica, scrigno di ineccepibile bugia. Delle braccia addormentate, binari ciechi per formiche, sindacati di endorfine in sciopero fino a data da destinarsi. E ci apriremo il petto per appenderci i santini, rosari fluorescenti, cesti da questo a vuoti. Croci che rassomigliano alle insegne delle farmacie. Io, come un alchimista, mi diletterò a fabbricare antidoti alle tue malattie. Esorcismi contro le misoginie, slogan fascisti, inni alle democrazie. E quel bipolarismo sottilmente dispettoso che un po' ti doni, un po' ti neghi, ed alzi le serrande nel mio giorno di riposo. E mi ritrovo puntualmente a partorir periodi che hanno come inizio una congiunzione e come fine poco nobile, quello di addestrarti se lo lancio a riportarmi il cuore e farti abituare alla sodomia di un brutto gioco di parole, nel tentativo di convincerti che senza non sai stare, senza le mie frasi storpie, senza esuberi biliari, senza un grammo virgola qualcosa d'amore. Che poi, se esiste la bellezza, questa è la bellezza. Se esiste la gioia, questa è la gioia. Se esiste l'amore, questo è l'amore. Se per esistere deve esistere così, allora che così esista. Se è tutto quello che c'è, io adoro quello che c'è. Se non c'è altro, io non voglio altro. Un uomo, una donna. Io sono, tu sei. Epilogo. Che poi, chissà le risate che sapore hanno. Io conosco il sapore delle lacrime, una fortuna impensabile assaggiarle. Mentre scorrono sul tuo viso, mentre scendono piano dagli zigomi, si appoggiano sulle guance e cadono sulle labbra. Ne approfitto e assaggio quelle cadute sul collo e sui capelli e sulle orecchie, sulle spalle e sulle mani e poi di nuovo sulle labbra. Una fontana, una fortuna. E poi conosco anche il sapore delle tue risate. Prima mentivo. Sanno di occhi che brillano, hanno il sapore della tua voce, delle tue gambe che incedono veloci, del tuo venirmi incontro, quasi correndo. Che poi che epilogo è se non scrivo come va a finire? Io lo so come va a finire, ma non te lo dico. Tu non lo sai. Io lo so come continua, ma non te lo dico. Tu non lo sai come continua. Non puoi. Io sì. Che poi, se rileggi tutto, lentamente, molto lentamente, per 10 volte, cioè se rileggi tutto lentamente per 10 volte di fila, ti rendi conto che devi scendere, perché sei su un treno ad alta velocità. So Come fai? Come fai? Come? Dimmi come fai. Qual è il tuo personale segreto? Cosa pensi? Come ragioni? Perché? Perché? Perché? Perdere così? Perché? Dove sei? Dove? Dove stai? Sola. Sola. Sempre. Sola. Con la musica tra quattro mura. Dentro, sempre dentro. Perché? Perché? Come puoi? Come hai potuto? Come? Dimmi come, dimmi perché, perché? Dimmi dove sei, dove sei? E perché? Dimmi perché. Mi devi dire perché, ho bisogno di sapere perché. Me lo devi il perché. Perché? Non restare in silenzio. Perché? Perché? Perché? Perché? Vi ringrazio per avermi ascoltato con attenzione. Adesso sono stanco. Ma che ne so? Private Investigations, Enea Tomei, Valentina, benvenuti.